la stampella, il fulmine che è diventato simbolo del loro movimento, l'ombrello nero che sta a ricordare la grande pioggia che non ha fermato questa marea di donne all'interno delle piazze polacche. Noi li abbiamo assunti, abbiamo deciso di prendere questo messaggio che intendiamo rispedire al mittente e di tradurlo anche in polacco, perché noi accogliamo, sosteniamo e condividiamo le lotte delle donne polacche. E quindi oggi siamo qui per questo, perché il mio corpo e i vostri corpi oggi qui sono un atto politico, perché noi chiediamo e inderogabilmente ora servizi sicuri, aborto sicuro, legale e gratuito. Solidarity with my Polish sisters. Ciao, sono polacca e sono qui per dimostrare la mia solidarietà a tutte le mie sorelle polacche. I would like to describe you briefly the current situation in Poland. Sono qui per descrivervi un po' ciò che sta succedendo in Polonia in questo momento. 2 weeks ago, on 22 of October, the Polish government vote for the change in the Polish constitution for making the abortion totally illegal. 2 settimane fa, esattamente il 22 ottobre, il governo polacco ha firmato per poter, ha deciso di voler includere nella Costituzione l'illegalità dell'aborto e rendere quindi l'aborto illegale. Before it was legal only if the fetus was had some disease that the child could become a person with disabilities, or it was danger for the mother, or in case of a child being raped from rape. Prima l'aborto era legale soltanto nei casi in cui il feto presentasse delle malformazioni, quindi sarebbe potuto nascere con delle disabilità o in caso di stupro. Right now, even in case danger of your life or your children is gonna have disability, it's illegal. In case your child is made by rape, you can abort it, but it's practically impossible because the bureaucracy system takes more than 12 weeks, which 12 weeks pregnancy is a deadline for making an abortion. Con la nuova attuazione della legge, l'aborto sarà illegale anche nei casi in cui la madre o il feto sono rischiano di morire. L'unico caso in cui l'aborto potrà essere praticato sarà nei casi di stupro, soltanto che l'aborto deve essere praticato entro le 12 settimane dalla gravidanza e le pratiche burocratiche impiegano molto più di 12 settimane, quindi in ogni caso l'aborto sarà impraticabile. Most of the women who need to have abortion, they go abroad or they do it illegally in Poland, which is really dangerous. Le donne che vogliono praticare l'aborto quindi sono costrette ad andare all'estero oppure praticano l'aborto illegalmente e quindi tutto ciò rende la pratica pericolosa. Last week, more than 150,000 people went to the biggest protest in the capital, Warsaw, And since 2 weeks, even in really small cities, there are a lot of protests and they're still going on. Nelle ultime settimane migliaia di persone si sono riunite per protestare contro questa nuova legge voluta dal governo, persino nei centri cittadini più piccoli, e le proteste si stanno svolgendo tuttora, sono in corso. As we can read in the newspapers, there is a small victory, which is not a real victory, because the only thing, it's the sign of the new law, it's postponed by 2 weeks, but the politicians still gonna sign it down. L'unica piccola vittoria ottenuta sino ad ora, come magari qualcuno di voi ha già potuto leggere sui giornali, è stata la procrastinazione della firma che è stata procrastinata 2 settimane, quindi è stata stabilita per il 18 novembre, ma ciò è solo una piccola vittoria perché non ha fermato il governo dal voler attuare questa modifica. Today the Polish government announced that it's going to be a lockdown, so the protesting will be even more difficult and probably people will get a lot of fine for demonstrating their opinion on the street. Oggi il governo polacco ha deciso di attuare il lockdown in tutta la nazione e questo rende le proteste ancora più difficili da svolgere, dal momento che i manifestanti potrebbero avere delle multe dal momento che le proteste a causa del lockdown non si possono più fare. Today it's the Polish National Day of Feminism, and I would like to thank all my Polish and international sisters for fighting for the rights to talk and decide about their own bodies. Oggi in Polonia è il giorno nazionale del femminismo e sono qui per dimostrare il mio sostegno alle tutte le mie sorelle polacche e per tutte le battaglie che stanno svolgendo sino ad ora. To jest wojna. Questa è guerra. Siamo tutti qui in questa piazza perché le parole di un vicario ci ha fatto unire qui, perché ci scandalizzava che la parola aborto venisse paragonata alla pedofilia, un reato, un corpo. Ecco, su questo si legifera, sui corpi. Si permettono di dire che i nostri corpi non conformi o per corpi eteronormati possano essere disciplinati dai poteri che sono i pilastri di questa società eteronormata. Quindi si permette di poter gestire il corpo di una donna, i corpi delle persone transgender, i corpi nostri che sono oggetto di leggi dei poteri temporali e di quelli dello Stato, dove ancora si discetta, si psichiatrizza, si dice cosa dobbiamo essere, cosa dobbiamo fare, dove non si applica una legge 194 in tutta Italia, perché è una legge monca. È stata resa monca perché si permette di avere obiettori di coscienza dentro la sanità e non solo. Tutta la catena sanitaria, paramedici, sanitari, sono obiettori di coscienza. E di questo ve ne dovete rendere conto e rendere conto soprattutto ai nostri corpi. Si permette la Chiesa di dover mettere parola sulle nostre vite, sui nostri corpi. Non esiste questa cosa, non deve passare, come non è passata a Verona quando c'è stato il congresso mondiale, come non è, e siamo scese come in una di meno, transfemminista, tutta quanta, insieme a tutte le altre realtà, per dire no, su questo non vogliamo assolutamente che ci mettete bocca. 150.000 persone hanno detto no al congresso mondiale della famiglia. Non permetteremo assolutamente che anche questa regione passata alla destra si permetta di dover decidere sui corpi delle donne e di tutte le soggettività. Assolutamente no, non deve passare, perché se passa questo passerà che vi toglieranno quasi tutto quello per cui voi respirate. I poteri che sono, che ho appena menzionato, sono quelli che decidono praticamente sulla scelta produttiva, perché è giusto che durante la pandemia le donne si siano accollate tutto quanto, quindi la parte produttiva e riproduttiva, quindi dovete schiattare, lavorare e accollarvi, cura, casa, famiglia, istruzione e salute. E su questa salute qui vengono smantellati consultori, CAV, e di poche ore fa che il CAV di Napoli è stato completamente definanziato. È una vergogna che si parli contro la violenza delle donne, che si parli di salute e si depotenzia strutturalmente, perché è un problema strutturale, è la normalità che qua non avvengano i bugie. Se uno deve abortire a Civitanova Marche. Non è possibile che in una provincia che ha un ospedale non effettui l'IVG. Bisogna ricorrere a quella privata. È una vergogna questo. Avete nomi e cognomi. Quindi si chiede determinatamente, si metta sull'agenda in politica, si metta sull'agenda e che la politica si metta in testa che i corpi abortiscono, vi piaccia o meno, le persone abortiranno sempre. C'erano gli aborti anche nel 1500 e abortiranno anche adesso, però le state spingendo all'illegalità. Noi non siamo persone illegali. Grazie. Aborto per tutti. Però anche le persone trans abortiscono. Due parole da parte dell'associazione che rappresento, che è l'Osservatorio di Genere, che è fatta di tante donne, di tanti uomini e di tante che vedo anche qui tra voi. Io voglio dire una prima cosa, visto anche le cose che ho letto in questi giorni. Nessuno, secondo me, oggi ci ha dato un'occasione per manifestare. Ce le facciamo da sole le manifestazioni ogni volta che vogliamo. Perché c'era una sorta di retropensiero per cui noi in qualche modo ci approfittavamo di questa cosa per scendere in piazza. Noi lo facciamo regolarmente, ci sono degli appuntamenti assolutamente cari a tante di noi, tra un po' lo faremo anche il 25 novembre con tante iniziative e ognuna di noi oggi ha, secondo me, una sua motivazione per essere qui. Ne potevamo fare a meno, cioè il senso è questo. Noi manifestiamo normalmente, poi oggi abbiamo deciso tutte insieme di farlo un'altra volta. E arrivo un po' a dire quello che è la motivazione specifica nostra. Io ovviamente ho letto tutto quello che voi avete scritto, tante di voi, e assolutamente condividiamo, guardo Silvia che lavora sempre con me, tutto quello che è stato detto. E ci siamo un po' domandate che cos'è che potevamo dire in più o quale contributo dare. Allora, la nostra associazione lavora normalmente su quello che è il campo della prevenzione, lo diciamo sempre. Noi facciamo un'opera quotidiana, faticosa, soprattutto con le nuove generazioni. Cerchiamo di diffondere un'educazione alla parità, all'affettività e un dialogo tra i generi, dentro i generi, tra i sessi. È un lavoro faticoso. Oggi in qualche modo, grazie di averci invitate, facciamo qualcosa di diverso, perché purtroppo siamo arrivate tardi, tutte noi. È successo qualcosa, cioè sono state dette delle parole assolutamente violente, piene d'odio, frasi violente. Perché si fa prevenzione con l'educazione al genere, alle differenze? Perché si vuole evitare che siano ricorrenti queste parole d'odio, anche rispetto al futuro. Sappiamo che la violenza è qualcosa che non si può eliminare in una società, però si può fare in modo di eliminare il più possibile le parole d'odio tra i sessi e tra i generi e le forme di violenza. È per questo che noi abbiamo fatto un post in cui abbiamo soprattutto sottolineato la violenza dei tempi e la violenza delle parole che purtroppo sono state dette. Quindi questa volta siamo arrivate tardi e, come diceva Antonia, siamo arrivate qua a fare questa manifestazione, è assolutamente giusto. A volte succede. E quindi bisogna un po' ripartire dall'inizio, sempre considerando che l'azione che facciamo anche di prevenzione è un'azione che svolgiamo dentro una società in cui i diritti ci sono, vanno migliorati ma esistono. Poi ognuno di noi appunto svolge un lavoro quotidiano, anche questo volevamo sottolineare. Ognuno a suo titolo, noi promuoviamo sempre la cittadinanza attiva, che vuol dire che ognuna di noi quotidianamente può esercitare il diritto di esprimere idee che promuovono una parità in una società. Allora, che cos'è? Qual è il punto di quelle parole d'odio? Per noi è questo. Quelle frasi rappresentano un universo linguistico e simbolico che secondo noi non è assolutamente rappresentativo, identificativo di quella che è la condizione delle donne oggi. Cioè, la soggettività femminile non è quella che è stata raccontata dentro quelle parole. Le donne hanno fatto un percorso lungo che parte sempre dall'esistente, noi diciamo sempre, si parte da ciò che si era, si partirà da ciò che si è oggi e si cambia, si evolve. Quindi quelle sono parole, universi simbolici che rappresentano non la realtà delle donne oggi, ma che ci invitano a tornare indietro, a guardare la realtà che per fortuna non esiste più. Quindi qual è, diciamo, l'invito che facciamo oggi, ma è quello che poi facciamo sempre? Assolutamente non stare dietro a queste credenze, a questi luoghi comuni, rifiutare chi ci vuole far indossare delle lenti assolutamente deformanti rispetto alla realtà delle donne, chi non vuole riconoscere la fatica di una soggettività femminile che si esprime in tanti modi diversi, dentro generi diversi, e invece quello a cui teniamo sempre, la possibilità di esprimere un pensiero critico e un pensiero aperto al confronto e al dialogo, perché è l'unica strada, a nostro avviso, per fare in modo che effettivamente si dialoghi tra i generi e si riesca a raccontare le differenze e le diversità di tutte e di tutti. Grazie. Volevo ricordare a tutti e tutte di mantenere il distanziamento e portare la mascherina, per la sicurezza di tutti i presenti. Io sono Francesca di Officina Universitaria. Da qualche giorno, da quando la questione dell'aborto è tornata al centro dell'opinione pubblica cittadina e non solo, una cosa che spesso ci siamo sentiti ripetere è: il patriarcato non esiste, la società italiana non è patriarcale. Mi piacerebbe davvero che queste affermazioni fossero vere, magari. Ci auguriamo davvero che un giorno lo siano, ma per ora non è così. Non è così perché oggi siamo ancora qui a parlare di diritto all'aborto e di diritto alla salute della donna, parliamo di diritto di scelta. Le parole di Don Leonesi sono aberranti, il paragone tra pedofilia e aborto ci fa rabbrividire. Eppure, se fosse rimasta una questione interna ad una parrocchia, non saremmo qui in piazza a parlarne. Siamo qui perché sono state tirate in ballo questioni politiche e di principio, alle quali anche pezzi della società civile si sono uniti. Il parroco ha descritto le femministe denigrandole, parlandone quasi come mostri. Eppure siamo qui, siamo umani, non mostri e non chiediamo la luna, solo diritti. Sì, perché questa piazza è una piazza femminista e con orgoglio vogliamo rivendicarlo. E ora che il microfono amplifica la nostra voce, vogliamo ribadire a chi ancora pensa il contrario che il femminismo vuol dire parità e diritti per tutti. Come Officina Universitaria, associazione studentesca che da anni opera dentro l'università e in città, quello che ci ha fatto più male è stato sentire una nostra docente unirsi alle parole del prete. Riteniamo che il ruolo del docente non finisca al termine della lezione, ma che esso continui anche fuori dalle mura universitarie. Il docente dovrebbe farsi portatore di buon esempio, di rispetto per gli altri e di difesa dei diritti. Al contrario, la professoressa ha paragonato l'aborto all'omicidio, all'infanticidio e infine all'eugenetica. Definisce assassine quelle che potrebbero essere le sue stesse studentesse. Aggiungendosi al coro del parroco e del vescovo, parla di sottomissione della donna all'uomo. L'intera vicenda urta profondamente la nostra sensibilità e i valori di cui siamo portatori in qualità di rappresentanti degli studenti. Queste parole regolano il femminismo ad un semplice capriccio, ignorando il tortuoso percorso di conquista dei diritti che c'è dietro, portando alla luce una visione della società arretrata e patriarcale. Sì, perché a differenza di quello che ci è stato detto in questi giorni, anche questo è patriarcato. Patriarcato non è solo una legge che espliciti la sottomissione di un sesso all'altro. Patriarcato è ad oggi un substrato culturale che si ripercuote nella quotidianità di tutte e di tutti. Patriarcato è qualsiasi forma di imposizione o discriminazione di un corpo. È l'obiezione di coscienza dopo che la legge sul diritto all'aborto ha compiuto 40 anni. Ma anche la costante narrazione dell'aborto come scelta sofferta e dolorosa. Patriarcato è il gender gap sul lavoro. È la frase: l'aspirazione maggiore per una donna deve essere la maternità. È sentirsi spiegare da un uomo come mi sento o quello che ho detto, cosa che mi è successa personalmente questa mattina, proprio da una persona che diceva di saperla lunga sui diritti all'uguaglianza. La nostra docente applaude all'esempio della Polonia, che pone misure restrittive sull'aborto. Non solo, con le sue pesanti affermazioni la professoressa insulta apertamente gran parte della sua platea studentesca, con cui tutti i giorni si interfaccia. Parla di sinistroidi e definisce oscurantisti della società civile tutti quelli che difendono il diritto all'aborto, perché ricordiamocelo, di un diritto si tratta, mentre l'infanticidio è un crimine e reato con cui lei stabilisce il termine di paragone. Libertà di scelta, parità di diritti, diritto alla salute, autodeterminazione e diritto all'aborto sono solo alcuni dei valori che come Officina Universitaria propaghiamo. Per questo prendiamo le distanze da queste parole che non ci rappresentano, pronunciate da chi ancora una volta non ha perso l'occasione per macchiare l'immagine della nostra università. Abbiamo denunciato questa questione al rettore, facendoci portavoce della comunità studentesca, e oggi siamo qui a ribadirlo alla città di Macerata, città nella quale la presenza studentesca fa da cuore pulsante insieme all'università tutta. Cuore pulsante e promotore di innovazione, questa è l'università, luogo privilegiato di progresso, rispetto, libertà e accoglienza. C'è un organo, tra quelli universitari di rappresentanza, nel quale sediamo anche noi di Officina, che è il CUG, Comitato Unico di Garanzia, che si occupa di promuovere e tutelare le pari opportunità e la parità tra i generi e contrasta ogni forma di discriminazione. Questo organo, tra le altre cose, ha introdotto il libretto Alias per le persone transgender e ha da poco avviato un corso di gender politica istituzioni. Questa è l'università che ci rappresenta e che rappresentiamo. Questa è l'università che guarda al presente e al futuro. Questi siamo noi studenti, non le parole bigotte offensive di una docente. Infine, ci tenevo a dire che pochi giorni fa la legge Zan è stata approvata alla Camera. Una legge contro l'omofobia, la transfobia e la misoginia. Quello stesso giorno alcuni rappresentanti... Quello stesso giorno alcuni rappresentanti delle destre si sono presentati con il bavaglio, si sentono mutati, silenziati, privati di un diritto. Quale diritto? Il diritto di odiare, il diritto di insultare. Noi invece siamo qui a ribadire un diritto essenziale, quello alla libertà di scelta. La differenza è facile da cogliere. La lotta non si ferma qui. Come officina universitaria continueremo ogni giorno dentro le sedi universitarie e nel nostro personale. Buongiorno a tutte e tutti. Io credo che quello che sta succedendo in Polonia deve dimostrarci una cosa, che la lotta femminista per l'autodeterminazione dei corpi è una lotta necessaria, è una lotta indispensabile, ma soprattutto è una lotta efficace, una lotta che porta risultati. Due settimane fa il governo aveva detto che entro pochi giorni l'aborto per malformazione del feto sarebbe stato reso illegale, ma da due settimane a questa parte non l'hanno ancora pubblicato in Gazzetta. Questo perché durante queste due settimane le donne polacche hanno occupato le strade, le piazze, le chiese, si sono riversate come una marea. Sono state manifestazioni tutti i giorni e le donne polacche sono riuscite a mettere in relazione la loro rabbia e a farsi sentire, perché quando non abbiamo paura di mostrare la nostra rabbia, di collettivizzarla, di unirla a quella delle nostre compagne e delle nostre sorelle, allora non siamo più noi ad avere paura, ma sono gli altri ad avere paura. E infatti vediamo che il governo polacco ha paura adesso di emanare questa legge. E questo ci deve dare un grosso insegnamento, perché quello che è successo qui a Macerata ci insegna che anche qui in Italia la nostra lotta per l'autodeterminazione dei corpi non è assolutamente finita né conclusa. Noi dobbiamo essere sempre pronte a rispondere a questi attacchi, e che è come quello che stiamo facendo qui oggi, ed è bellissimo vedere tutte queste persone in un momento del genere, ma è importante collettivizzare la nostra rabbia, perché gli attacchi all'autodeterminazione dei corpi delle donne vengono da ogni parte, vengono dai preti, vengono dai padri, vengono dai padroni. La nostra guardia deve essere sempre alta. Dobbiamo riuscire a collettivizzare la rabbia che portiamo dentro come donne, perché tutti i giorni siamo costrette a subire paternalismi, moralismi, colpevolizzazioni, e questo viene da tutte le parti, non solo dalla Chiesa, viene dalle istituzioni, viene dai media, dentro le nostre famiglie, al bar con gli amici. È un attacco costante e continuo, e io credo che tutte le donne in questa piazza sentano un sentimento di rabbia dentro di loro. Beh, questa rabbia io credo che vada unita alla rabbia di tutte le altre donne che sono intorno a noi, insieme alle nostre sorelle, insieme alle nostre compagne, che questa rabbia vada portata nelle piazze, vada portata nelle strade, ma che vada portata anche nei luoghi di lavoro. È una rabbia costante e non dobbiamo avere paura di mostrarla, perché quando la mostriamo sono gli altri ad avere paura di noi, e questo la Polonia ce lo insegna bene. E qui in Italia ancora purtroppo dobbiamo darci da fare. Se pensiamo che in 5 anni sono stati chiusi 208 consultori, negli ultimi anni, sono ormai parecchi che le diverse politiche neoliberali hanno chiuso praticamente le strutture sanitarie locali e i piccoli centri più marginati e isolati sono rimasti esclusi. Si è investito solo sui grandi centri ospedalieri, e i pochi consultori che sono rimasti in piedi sono tutti affidati a partenariati con enti privati, la maggior parte cattolici e pro-life, che invece di aiutare le donne in un momento in cui meriterebbero ascolto e un appoggio, ricevono solo colpevolizzazioni. Quindi la lotta è anche qui, è anche ora. Noi siamo in solidarietà naturalmente con le compagne polacche, ma dobbiamo ricordarci anche che siamo qua perché questa è una situazione che viviamo sempre e ovunque. Quindi né lo Stato, nemmeno il vostro Dio, sul mio corpo decido io. Ciao a tutte e tutti, sono Davide del collettivo studentesco The Punker qua di Macerata e niente, ci tenevo a ricordare a quei signori e signore saliti agli onori della cronaca negli ultimi giorni, e mi riferisco al vescovo, vicario, alla docente di cui si parlava prima, che parlano della Polonia come un paese che si è fatto andare bene delle leggi liberticide come quelle che vietano e costringono alla clandestinità all'aborto, mentre in Polonia centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza, stanno scendendo in piazza tuttora, perché cioè, è una lotta degna, centinaia di migliaia di persone scendono in piazza violando misure, violando coprifuoco, cacciando fascisti e razzisti dai loro cortei, perché la lotta femminista è una lotta anche per i diritti fondamentali e non sono tollerate alcuna forma di xenofobia e discriminazione di ogni sorta. Inoltre ci tenevamo a precisare che qua in Italia in particolare, ma anche fuori dai nostri confini, l'oscurantismo, le pratiche violente, le affermazioni che nuociono alla dignità delle donne non sono limitate solo alle chiese o agli ospedali con gli obiettori di coscienza o ai palazzi del potere, ma appunto, come si diceva prima, che diceva la compagna, nei luoghi dove si produce cultura, come ad esempio l'università, nei luoghi dove dovrebbe maturare, in chi attraversa questi luoghi, dovrebbe maturare un pensiero critico rispetto al presente e alle sue contraddizioni, invece c'è ancora gente che pubblicamente non si vergogna di professare le parole del pensiero dominante patriarcale e offensivo nei confronti di tutte e tutti. Grazie, spero che questo sia solo l'inizio. Grazie. Buonasera. Non faccio parte di nessun gruppo in particolare, sono un insegnante. Ogni tanto bisogna scendere in piazza per ribadire l'ovvio. Allora, lasciatemi dire qualche ovvietà. Viviamo in uno stato laico. Non siamo soggette a dottrine teologiche. Abbiamo e vogliamo libertà di scelta, abbiamo e pretendiamo il diritto alla salute. Ogni tanto qualcuno prova a dirci che queste cose non sono vere, prova le solite vecchie mosse autoritarie, repressive, la Polonia, abbiamo citato, un governo che non solo sta minando il diritto all'interruzione di gravidanza, ma ad esempio sta cercando di uscire da tutti gli accordi internazionali sulla violenza domestica, sta dicendo che non esiste la violenza domestica. Il resto è stato detto, no? Non si può abortire neanche in caso di malformazione del feto, neanche in caso di malattia letale, irreversibile, bisogna nascere e soffrire. Molte istituzioni internazionali hanno condannato hanno denunciato questi estremismi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, Amnesty International, gli osservatori umanitari, tanta parte della società civile polacca è scesa in strada, lo sappiamo. Tutti hanno evidenziato questi attacchi estremi che si esprimono in leggi, ma si esprimono anche in censura, in mobbing, in prediche virulente e in un clima di isteria collettivo. Qualcuno ricorderà che l'anno scorso, a gennaio, è stato ucciso il sindaco di Danzica, Pavel Adamovic, fautore dei diritti umani, civili, di tutte, di tutte le persone, ucciso da un fondamentalista. Allora, se si invoca la Polonia come modello da seguire, c'è qualcosa che non va, qualcosa si è inceppato nella ragione, nel senso di giustizia. Ogni tanto qualcuno ci prova a mettere in dubbio la giustizia, allora bisogna ritrovarsi in piazza, anche durante la pandemia, ristabilire un po' di equilibrio. In una lingua molto semplice, molto chiara, bisogna dire che criminalizzare l'interruzione di gravidanza non dimostra nessuna umanità, nessuna carità, nuoce ad ogni forma di dibattito, esaspera il clima, genera estremismi, genera mostri. Mi è stato detto che un povero parroco di provincia, non tanto dotato di arte oratoria, mica lo puoi mettere sulla gogna, no? Il povero parroco vicario del vescovo ha facoltà di entrare in ogni scuola statale delle Marche, per esempio, a richiesta gli si spalancano le porte di ogni istituto inferiore e superiore, senza che nessuno fiati. In genere si fa per consuetudine, no? Per quieto vivere più che per fede, però si fa così. Il povero parroco non è tanto povero se ha questo potere. Se parte da questa posizione di potere, parlare in assemblea, ai giovani, nelle scuole, quando vuole, non pagare le tasse, far sì che i docenti di religione cattolica siano pagati con i soldi delle contribuenti e dei contribuenti. Se gode di questo potere, dovrà allora essere preparato ad affrontare le conseguenze del suo potere e delle sue parole di potere, anche e soprattutto se sono gettate a casaccio parole pericolose e confuse, che ci è sembrato avessero a cuore più la retorica della difesa corporativa, no, dei colleghi, che una vera riflessione sui diritti delle persone. Mi si dice che non devo meravigliarmi. Di che ti meravigli? I preti fanno i preti. Si sa, sono contro l'aborto, si sa, sono contro la contraccezione, si sa, sono contro il sesso che non sia a fine riproduttivo. Sarà. Ma quando queste opinioni di fede diventano una chiamata all'appello per i politici, un'invocazione per lo Stato su basi religiose, allora neanche loro devono meravigliarsi se la società civile pensante reagisce e si ritrova a chiedere il diritto di scelta, il diritto a un'interruzione di gravidanza senza rischi e senza stigma, il diritto a una concezione della donna meno arcaica di quella irricevibile della donna sottomessa, della donna contenitore. Per alcuni è normale negare questi diritti, io non penso sia normale. È di certo normale per noi qui ribadirli. Viviamo in uno stato laico, non siamo soggetti a dottrine teologiche, abbiamo libertà di scelta, abbiamo e pretendiamo il diritto alla salute. Allora, io sono all'incirca, oltre i miei 40 anni, sono 20 anni che scendo in piazza, ho perso quasi tutte le mie battaglie, quella sulla precarietà, quella sulla conciliazione lavoro-famiglia, anche un po' di quelle sulla salute, una volta anche qui a Macerata lo screening per il papilloma virus era gratis, adesso non lo più, eccetera, eccetera. Le battaglie di mia madre le ha vinte, io ho ereditato quelle battaglie vinte, voglio tenermele strette. 20 anni fa eravamo 4 gatti qui, adesso siamo tante di più, spero che le 20enni, le 30enni, le adolescenti anche prendano il testimone e possiamo sempre scendere ancora in piazza insieme a dire no. Grazie. Adesso abbiamo un collegamento Giulia Carta. Ci sentite? Mi sentite? Buonasera a tutti, a tutti, a tutto. Sono molto felice che siate in piazza in questa evenienza, ho seguito io stessa le parole del vescovo vicario di Macerata, ho risposto alle parole del vescovo vicario di Macerata e sono stata bloccata per 24 ore su Facebook. Chissà perché. Si parla di aborto, ma non è soltanto l'aborto quello su cui praticano l'abuso i ministri e i rappresentanti di una religione che dovrebbe rappresentare tutt'altro in tutto il mondo. Si parla di abusi di altro genere, di limitazioni delle libertà a ogni soggettività, perché secondo loro noi dobbiamo essere divisi in due categorie, una abusante il maschio e una che viene abusata, la femmina. Siamo persone, siamo esseri umani, dovremmo avere pari diritti, pari dignità, pari rispetto e pari giustizia ovunque. E questa è una guerra che deve portare al di là di ogni religione, al di là di ogni credo, sulla libertà dell'essere umano. La libertà di riunirsi, la libertà di essere vive e vivi, la libertà di poter decidere del proprio corpo che oggi dagli strumenti politici, dagli strumenti ecclesiastici che pugnano una religione che non dovrebbe dare quello, che non dovrebbe dire quello, cercano di decidere delle nostre vite, decidere cosa dobbiamo portare nel nostro corpo e come dobbiamo portare il nostro corpo. Io mi chiamo Giulia Carta, fortuitamente sono omonima di una guaritrice sarda del 1500, una che portava del bene al proprio popolo e per il bene che portava al proprio popolo fu condannata al rogo 2 volte e in certo qual modo quelle 2 volte scappò al rogo, si dice che sia ancora viva perché dopo la seconda volta scomparì nel nulla e ancora lotta assieme a noi. Siamo noi le streghe, siamo noi quelle che stanno decidendo di nuovo per i diritti dell'umanità. E come da voi che siete in piazza oggi, domani saremo in piazza delle nostre terre. Qualche giorno fa una consigliera regionale ha riportato nel consiglio la PAS, la sindrome di alienazione parentale, quella stupidata che vuole permettere ai padri abusati di riprendersi figli a discapito della madre che ha subito le ingiustizie per tutta la vita. E allora siamo di nuovo in piazza anche noi, in Sardegna, come lo siete voi oggi, perché non è un solamente un prelato, è tutto l'insieme della politica che appunta su di noi. E lo ripeto in ogni piazza, lo ripeto ovunque. Voi che siete lì, siete voi la politica, siete voi che vi dovete riunire, siamo noi che dobbiamo decidere per il nostro popolo, per le nostre anime, per i nostri corpi. Non loro che ci fanno le leggi come cavolo gli piace. Non quelle le stupidità delle finte leggi contro l'omofobia, contro la transfobia. La legge deve essere nostra, dobbiamo crearla noi, dobbiamo essere noi a stabilirla. E fuori questa gente che crede di poter decidere del nostro corpo. Fuori, una volta per tutte. Non solo della piazza, ma dell'intento della piazza stessa, perché non si deve fermare alla piazza questa forza. La forza deve penetrare, deve arrivare davanti agli occhi di queste persone che osano dire queste parole, perché dobbiamo continuare a dire basta, uscire dalla piazza, affrontare la vita di tutti i giorni e dirlo davanti ad ogni persona che ci troviamo di fronte, davanti all'altro cliente del bar che beve il caffè a fianco a noi. Basta, tutta l'intera società, tutta l'intera umanità deve stare assieme a noi. Vi abbraccio e vi auguro di bene, incrocio le dita per voi. Ciao a tutti, io con questo breve discorso vorrei raccontare le mie sensazioni da donna polacca vissuta nelle ultime settimane e commentare un po' tutto quello che è successo in Polonia. Non sono d'accordo che qualcuno decida del mio corpo, non sono d'accordo che i media pubblici mentano dicendo che nelle proteste partecipavano 200 persone mentre erano più di 100.000. Non sono d'accordo che le donne sono definite dai politici, e qui cito, aggressive e volgari putanelle, streghe, fasciste da sinistra e femminaziste. Non sono d'accordo, come donna, come polacca, come futura mamma, di essere costretta a portare una gravidanza a rischio solo per vedere la morte del bambino subito dopo il parto. Non sono d'accordo che vengano accusati i partecipanti delle proteste dell'aumento dei casi di Covid-19 in Polonia, mentre invece è stato il governo responsabile a creare un clima di tensione sociale causando le manifestazioni. Non sono d'accordo con le persecuzioni e punizioni degli studenti e insegnanti attivi nelle manifestazioni da parte del Ministero dell'Istruzione. Non sono d'accordo con il comportamento della polizia che invece di proteggere chi manifestava pacificamente, proteggeva e collaborava con i violenti gruppi nazionalisti. Non sono d'accordo nel descrivere delle proteste come un atto nocivo per la Polonia. Non sono d'accordo con il futuro progetto di legge che pone l'obiezione di coscienza per i farmacisti nel distribuire qualsiasi strumento di contraccezione. Non sono d'accordo con la persecuzione di organizzazioni delle proteste, tra cui una ragazza di 14 anni che rischiano 8 anni in carcere. Non sono d'accordo con la parlamentare Emilevich, secondo la quale le donne perdono la libertà quando sono in gravidanza. Non sono d'accordo con la nomina di Bartłomiej Wróblewski come rappresentante polacco per la promozione dei diritti umani, perché è stato proprio lui una delle persone dietro alla legge contro l'aborto. E non sono d'accordo con la liberazione e l'assoluzione di una persona che deliberatamente ha investito con la propria macchina delle manifestanti solo perché lavora per il governo. Però grazie per le centinaia di migliaia di persone che manifestavano sulle strade e sul web. Grazie per il supporto degli agricoltori con i loro mezzi, i tassisti, gli autisti di tram e bus e migliaia di macchine che hanno bloccato tutte le città. Grazie anche a tutte altre realtà. Grazie per la grande partecipazione degli anziani che lottano per il futuro delle proprie nipoti. Grazie per la commovente partecipazione di Wanda Traczyk-Stawka, una delle ultime viventi combattenti della rivolta di Varsavia, e la sua energia per la lotta per la libertà, perché come ripete sempre, non c'è dignità senza libertà. grazie a Svezia, Repubblica Ceca, Danimarca, Islanda e Norvegia, che già cercano di modificare la propria legislazione, offrendo per le donne polacche la possibilità di aborto legale e sicuro. Grazie per tutte le proteste di supporto alla situazione in Polonia e in tutto il mondo, e specialmente per questa qui a Macerata. Dziękuję wszystkim. Di Mero Verona. Pronto, mi sentite? Sì. Bene, allora buongiorno, buonasera compagni e tutte. Io ricordo la solidarietà del compagno di Verona e questo è un giorno molto importante perché si ribadisce di nuovo il diritto delle donne e delle libere soggettività di autodeterminarsi. Io ricordo che a Verona due anni fa, l'anno scorso, anzi nel 2019, proprio contro l'aborto, cioè contro le azioni da parte dei gruppi pro-choice contro l'aborto, abbiamo manifestato e siamo state in 150.000 a scendere in piazza per dire no alle oppressioni, no a quello che ci dice il clero, a quello che ci dice, che ci dicono questi movimenti no choice, sì alla nostra libertà e autodeterminazione come donne e libere soggettività, anche perché in questo periodo ci stanno di nuovo invisibilizzando, ci stanno di nuovo opprimendo, di nuovo, come al solito durante le crisi strutturali come quella attuale, le responsabilità e l'oppressione e la fatica cadono sulle persone più fragili. Le persone più fragili siamo anche noi donne e libere soggettività. Io ricordo sempre questa piazza transfemminista, questa marea che si mosse per Verona, bellissima, coloratissima, determinata, e io vi ringrazio di essere in piazza perché purtroppo in questo periodo molte di noi stanno soffrendo anche per la situazione, quindi siamo in difficoltà e quindi vi ringrazio e ci date moltissima forza. E grazie alle compagne polacche che portano avanti la loro lotta, che è una lotta di tutte noi, è una lotta ormai diventata internazionale e da cui tutte noi possiamo trarre forza e sentirci unite, perché solo se siamo veramente unite, tutto, io insisto su questo punto, scusate, ma per me il transfemminismo è importante. Insisto sul fatto che libere soggettività e donne si uniscano insieme contro il patriarcato, è quello l'unico nemico. Se riusciamo a sconfiggere quello, riusciamo proprio a essere libere, libero tutti. Ecco, compagne, forza tutti quanti. Un grande abbraccio da Verona. Oggi siamo venute qua da Fano come collettivo Sister on the Block perché qua a Macerata ci è stato chi ha invocato di fare come in Polonia. L'abbiamo accontentato, siamo scese in piazza in tantissime. Perché non ci devono neanche pensare, non ci devono neanche provare a dire che vogliono toglierci i diritti che le donne hanno conquistato con anni di lotta. Non ci devono neanche pensare di dire che noi dobbiamo essere sottomesse agli uomini, non ci devono neanche provare. Bravo. E già abbiamo risposto, questa mi sembra una cosa importantissima, le tante persone che ci sono qua oggi. Già nel 2016 le donne polacche sono state un faro per la lotta femminista con il loro Black Monday, contro il primo tentativo, perché questo non è il primo tentativo del governo polacco di limitare il diritto all'aborto delle donne. Già nel 2016 ci aveva provato, già nel 2016 le donne polacche erano scese in strada, avevano fatto degli scioperi grandissimi e avevano dato una spinta enorme a quello che è oggi il movimento femminista globale che stiamo vivendo ancora adesso. A questo punto, questi tentativi di calpestare i diritti delle donne per il governo polacco si sono trasformati in un boomerang, perché adesso le donne polacche non rivendicano più soltanto l'esistente, quella legge che è una tra le più restrittive a livello europeo e mondiale sul diritto di aborto, ma chiedono un aborto libero, sicuro e gratuito e legale. Chiedono, anzi, il 18 novembre ci sarà un altro sciopero generale delle donne per chiedere la dimissione del governo fascista in Polonia. Ecco, loro pensavano di poter calpestare così i diritti delle donne e invece si sono ritrovati, cioè pensavano di poter passare sui nostri corpi, invece cioè, hanno generato una marea che li sta travolgendo. Nel frattempo anche in Argentina la carovana verde è tornata per le strade, perché il nuovo governo ha fatto campagna elettorale e ha vinto le elezioni promettendo l'aborto legale. E adesso questa promessa la devono mantenere. Le donne non si dimenticano, i diritti delle donne non possono essere soltanto merce da campagna elettorale. Anche qua in Italia, vediamo a Torino sabato scorso, le donne sono scese in piazza contro la circolare regionale che non solo voleva mettere in discussione l'accesso all'aborto farmacologico in degli hospital e la somministrazione della pillola RU486 nei consultori, ma promuove anche l'apertura di sportelli permanenti delle associazioni antiabortiste all'interno delle strutture sanitarie pubbliche. Quelle stesse strutture sanitarie pubbliche che adesso avrebbero bisogno di più terapie intensive, di più strutture, più personale, che invece in questi 10 anni sono stati tagliati e che anche quest'estate non sono stati rafforzati per poter meglio affrontare l'emergenza sanitaria in corso. E nel frattempo vogliono aprire sportelli antiabortisti e dare i soldi alle associazioni religiose ultraconservatrici. Questa cosa non è tollerabile. Anche quando... Che ci tocca stare attenti e tenere gli occhi ben aperti rispetto alla nuova giunta. E intanto lo diciamo perché già qua nelle Marche oltre il 70% dei medici sono obiettori. E in alcune città come Ascoli, Iesi e Fano, in alcuni ospedali come quelli di Ascoli, Iesi e Fano, hanno bisogno, devono ricorrere al personale esterno per poter praticare le IVG, mentre Osimo è fermo. L'obiezione è al 90% e le donne non hanno possibilità di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi noi adesso facciamo che questa piazza sia da monito affinché loro non ci pensino neanche di poter mettere in discussione i nostri diritti, perché noi non glielo permetteremo mai e non faremo mai un passo indietro rispetto ai diritti che abbiamo conquistato. Quello di cui stiamo parlando non è solo l'aborto, ma è anche la nostra autodeterminazione, la nostra libertà di scegliere sui nostri corpi e sulle nostre vite, ed è questo che fa paura agli uomini al potere. A loro non interessa affatto la fantomatica difesa della vita, lo vediamo quando si parla di migranti, lo vediamo quando si parla di diritto alla salute. E anche l'aborto rientra in questo diritto alla salute, l'aborto sicuro e gratuito per tutte. Ciò che a loro interessa è solo controllare i nostri corpi riproduttivi di donne e continuare a mantenere questo controllo. Ma noi non siamo oggetti, non siamo incubatrici per la patria prole, noi siamo soggetti autonome delle nostre vite e continueremo a batterci contro la versione patriarcale che ci vuole soltanto mogli e madri. Chiedendo chiedendo molto di più della difesa della legge 194. Stiamo chiedendo molto più di 194. Innanzitutto, basta obiezioni di coscienza, fuori gli obiettori dei consultori degli ospedali pubblici. E poi vogliamo anche contraccezione gratuita, educazione sessuale nelle scuole, una vera educazione sessuale che non sia eteronormata. Vogliamo servizi, garanzie e tutele che ci permettano di non dover più scegliere tra essere madri o lavorare. Ed è questa la principale riforma che serve. Ciò che più serve per evitare veramente di ricorrere all'aborto. Vogliamo tutto questo e non lo stiamo chiedendo educatamente, ce lo prendiamo, ce lo costruiamo, lo facciamo. La nostra rabbia, la nostra autodeterminazione vi spazzerà via, questa è una guerra, levatevi di mezzo. Io vorrei salutarvi soprattutto a nome delle donne curde combattente. E noi combattiamo anche per questo. Vorrei ricordare, solo ieri ho letto una notizia, una ragazza di 16 anni ha buttato fuori della finestra un bambino neonato e verrà processata come l'omicidio. L'omicidio è stato commesso dallo Stato, dalla Chiesa, dalla Moschea. Nessun prete, nessun vescovo, nessun imam potrà decidere a nome nostra. Il corpo è nostro e scegliamo noi se vogliamo dare un'altra vita a questo mondo schifoso che viene portato avanti da un sistema capitalistico, che noi donne veniamo usati come un oggetto dalla religione, dallo Stato e oggi anche dalla sanità. Se una farmacia fa obiettore di coscienza e non mi vende il pillole di giorno dopo, non sono io a ammazzare una vita. E stessa farmacia e obiettore di coscienti, le chiese, le moschee e lo Stato deve smettere di decidere nome nostra. Noi donne ce la prenderemo la nostra libertà. Questo non è una richiesta, questo è un avviso da parte delle donne che la nostra libertà ce la conquisteremo noi e voi dovete soltanto stare zitti a decidere nome nostra. Donna, vita, libertà. E adesso il microfono è aperto per chiunque voglia intervenire e dire la propria. Ciao a tutti! Quando ho sentito le parole di Don Andrea mi è venuto a vomitare. Prima di tutto per l'accento insostenibile. Secondo, per aver osato paragonare quello che è un mio diritto alla pedofilia. E ce lo ricordiamo chi è stato accusato di pedofilia? Ce lo ricordiamo quanti preti hanno abusato della loro posizione per violentare bambini? E quanti di loro sono stati coperti da vescovi? Quanti di loro, usciti dalla loro sentenza, sono tornati nelle chiese? Quanti? Quindi a Don Andrea vorrei dire, prima di parlare di pedofilia, prima di parlare di aborto, guarda la chiesa, guarda il posto in cui sei, guarda quello che rappresenti, perché il cambiamento deve partire anche da loro. Il mondo non diventerà un posto più accogliente per le persone finché non partirà anche dalla Chiesa, dalla politica. L'aborto in Italia è quasi impossibile ancora da avere, specialmente al centro-sud, ed è un nostro diritto da anni. Perché esistono gli obiettori di coscienza, esistono persone che scelgono di fare un lavoro apposta per toglierci un nostro diritto, perché adesso una persona che sceglie di diventare un ginecologo nel 2020 sa che l'aborto è legale e sa che sta scegliendo di togliermi un mio diritto, e questo è il mio corpo e non mi toglieranno la mia libertà. Distribuito una preghiera che abbiamo scritto e ci è venuta in mente pensando alla professoressa Clara Ferranti, e a una nostra personale rivisitazione dell'Ave Maria. Recitiamo insieme questa preghiera dedicata a Clara Ferranti, professoressa di linguistica all'UIMC, intervenuta in difesa dell'omelia di Don Andrea Leonesi e promotrice dell'Ave Maria in apertura alle sue lezioni. Con tanto amore, Ave Ulva, piena di grazia, il piacere è con te, tu sei benedetta tra le cosce e benedetto il monte di Venere tuo. Yuhu! Santa Vagina, madre di tutto, squirta su spine e scovoni, adesso è l'ora del nostro orgasmo. Salve a tutte e tutti, mi chiamo Gianmarco, di San Benedetto del Tronto. Volevo dire soltanto, cercherò di essere breve perché non sono tanto bravo a parlare, volevo dire soltanto questo, che il maschilismo esiste sia in questa forma nel sociale, quando viene proibito l'aborto, ma esiste anche sul posto di lavoro, esiste anche quando una donna viene pagata di meno rispetto a un uomo. Esiste anche quando con le riforme sulle pensioni, quando una donna va in pensione molto più tardi viene pagata molto di meno. Quindi cerchiamo di lottare anche per un posto di lavoro equo, perché più diritti per le persone, più diritti per tutti vuol dire meno sfruttamento. Grazie. Ricordiamo a tutta la piazza che il microfono è aperto, se qualcuno volesse intervenire, noi siamo qui. Thank you. salutiamo e ringraziamo questa piazza, ringraziamo tutte e tutti che sono intervenuti e sono qua oggi, e ci teniamo a mandare un ultimo messaggio a vicario e vescovo. Oggi in piazza qua non ci sono le streghe, non sono scese in piazza le femministe, i nipoti, insomma le solite cose. Qua in piazza oggi c'è la Macerata degna, c'è la città che non accetta e non accetterà mai che si continui a fare provocazioni, propaganda e soprattutto politica sui nostri corpi, sui corpi dei più deboli. Non ci stiamo, non ci siamo mai state e non ci staremo mai. Grazie ancora a tutti e tutte.